Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. A settembre 2012 il commercio estero ha segnato una battuta d'arresto per l'Italia. Approfondiamo i dati sul commercio dell'Italia con gli altri paesi europei. I lavori sull'accordo di collaborazione fiscale fra Italia e Svizzera, che consentirà di tassare i risparmi depositati sui conti di Lugano e Zurigo e fino ad oggi sfuggiti al fisco di casa nostra. Inizialmente l'Unione Europea si era detta contraria ad accordi bilaterali, ma recentemente li ha definiti pienamente concordi con il diritto comunitario. Moody's declassa la Francia, il paese perde la prestigiosa AAA, quella dei paesi più virtuosi, come aveva già fatto Standard & Poor's a gennaio. Non arriva ancora l'accordo di Bruxelles sulla Grecia per avere il via libera agli aiuti. La discussione sul bilancio pluriennale europeo 2014-2020, che riguarda le 27 nazioni dell'Unione. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. A settembre 2012 il commercio estero segna una battuta d'arresto per l'Italia, con le esportazioni che scendono del 2% rispetto ad agosto e del 4,2% su base annua, la peggiore flessione da dicembre 2009. Anche le importazioni calano, cedendo il 4,2% a livello congiunturale e il 10,6% nel confronto annuo. Parte significativa del calo delle esportazioni è riconducibile almeno 10% nelle vendite verso la Germania, primo cliente del nostro paese, con una quota del 13% di tutto il nostro export, il doppio rispetto agli Stati Uniti e 5 volte la Cina. Male anche le vendite di prodotti italiani in Francia, meno 6,6%, e in Spagna, meno 13%. Positivo invece il dato relativo alla Gran Bretagna, più 1%. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con il professor Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano ed editorialista per Il Sole 24 Ore. Si sta fermando tutta l'Europa, non solo la Germania, e quindi, essendo la Germania il nostro principale mercato, è chiaro che le nostre esportazioni, come quelle del resto anche di altri paesi che hanno mostrato gli stessi andamenti verso la Germania, ne stanno risentendo. E in effetti anche il dato sulla Francia, meno 6,6, non è bello, Spagna meno 13%. Tra l'altro, se andiamo a vedere i settori, l'alimentare ha fatto più 1% nell'export, tant'è che l'agroalimentare supera in valore le esportazioni dell'agroalimentare superano in valore quelle delle auto, per la prima volta. Abbigliamento e calzature meno 7,7, chimica meno 4,6, elettronica meno 7,5, meccanica meno 6, farmaceutica più 1,80, mobili meno 8, mezzi trasporto meno 12. Cosa dobbiamo capire dai dati per settore? Rallentano di meno, come sempre in queste situazioni, i beni anticiclici come i prodotti, certo, alimentari, i prodotti farmaceutici, quelli che non puoi comprimere, diciamo. Sì, diciamo, i consumi di questi beni non tendono a calare in casi di crisi in nessun paese, quindi anche i flussi di commercio tra paesi ne risentono poco, mentre invece i prodotti che risentono di più in questi casi sono i prodotti, beni finali di consumo non durevoli, come le automobili per esempio, di cui c'è stato un vero crollo sia dell'import che dell'export, ma anche beni strumentali e beni intermedi, perché si fermano e rallentano le attività produttive, quindi si scambiano meno questi prodotti. È abbastanza comprensibile che i paesi come la Cina, verso cui vanno molti nostri beni di investimento, macchinari industriali per esempio, rallentino in questo momento, perché la Cina a sua volta, essendosi fermata l'Europa e rallentando anche gli Stati Uniti, esporta di meno, quindi importa meno beni di investimento, meno macchinari in quel momenti come questi. Quindi la Cina si è proprio fermata in valori e volumi, mentre invece facevate notare prima che per esempio verso alcuni paesi extra UE le esportazioni italiane continuano a crescere. Sì. In realtà stanno crescendo in valore, perché c'è stata anche una svalutazione dell'euro che ha gonfiato i valori in euro delle nostre esportazioni verso paesi dell'area del dollaro o della sterlina per esempio. Ma se guardiamo le esportazioni in volume, a settembre sono cadute del 9,9% quelle verso i paesi UE, ma anche del 5% quelle verso i paesi extra UE, che dimostra che si sta fermando proprio un po' tutto il commercio internazionale. Questo riguarda l'Italia, ma in realtà tutti i paesi. C'è un cortocircuito che dipende soprattutto dalla crisi europea. Fin tanto che la crisi era limitata a piccoli paesi come Grecia, Irlanda, che erano

L'avvertimento era stato lanciato il mese scorso. Ora Moody's è passata dalle parole ai fatti e martedì 20 novembre ha tolto alla Francia la prestigiosa AAA, quella dei paesi più virtuosi, e downgradando il paese transalpino di uno scalino, come aveva già fatto Standard & Poor's lo scorso gennaio. Moody's, nel motivare la sua decisione, punta il dito sulla graduale perdita di competitività dell'economia francese e sulla rigidità del mercato del lavoro e dei servizi. Si registra insomma un deterioramento delle condizioni economiche che mette a rischio le prospettive di bilancio. Prospettive che, si sottolinea, si fanno sempre più incerte. Un'incertezza che per l'agenzia internazionale è acuita dal fatto che la Francia è oggi, rispetto a mesi fa, più vulnerabile rispetto ad eventuali futuri nuovi shock che si potrebbero verificare nell'Eurozona. Lo spettro della bomba d'orologeria europea, evocato giorni fa dall'Economist parlando di Parigi, si fa adesso più inquietante. E non arriva ancora l'accordo di Bruxelles sulla Grecia, che per avere il via libera agli aiuti, 44 miliardi di euro, la tranche in sospeso, dovrà aspettare almeno lunedì prossimo, quando l'Eurogruppo si riunirà per cercare di sbloccare la trattativa saltata per le resistenze della Germania. Non è stato possibile trovare un accordo oggi, ci riproviamo lunedì, ha detto martedì 20 novembre il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker dopo 12 ore di riunione. Le parti sono ancora troppo distanti, in particolare Eurogruppo e Fondo Monetario sono su posizioni diverse sulla sostenibilità del debito greco. L'Eurozona sarebbe disposta a spostare in avanti di 2 anni i paletti di rientro dal debito, ora fissati al 120% da raggiungere nel 2020, mentre il Fondo Monetario non intende cedere. I paesi, in particolare la Germania, hanno bisogno di quantificare le misure per aiutare Atene a ridurre il debito oggi al 188% del PIL. Non c'è accordo poi su un altro punto, non si sa come colmare il gap di 15 miliardi creato a causa della precedente decisione di non concedere 2 anni in più sul rientro del deficit. E nuovi aiuti sono fuori discussione. Mercoledì 21 novembre Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Sentiamo. Ci si aspettava una soluzione, un accordo tra appunto i creditori, che erano rappresentati dai paesi appunto dell'Eurozona, e poi c'era anche un rappresentante della Banca Centrale Europea e il rappresentante del Fondo Monetario, Christine Lagarde, che era stata a suo tempo anche ministro delle Finanze, che aveva dato la famosa copia del dischetto di evasori fiscali trovati nella filiale di Ginevra della HSBC. Appunto, c'erano appunto anche dei greci che finalmente sono stati pubblicati da un coraggioso giornalista greco, che dopo 2 anni che questo dischetto era stato dato dalla Lagarde, che allora era ministro delle finanze francese, al collega greco Papa Costantino, dopo 2 anni non si era ancora nemmeno aperto nessun procedimento. E quindi dopo appunto questo coraggioso giornalista ha pubblicato su un suo sito questo elenco e naturalmente è stato subito processato. Comunque ieri sera la Germania ha fatto appunto ancora diciamo freno. Perché? Perché la Lagarde vuole, il Fondo Monetario vuole arrivare a concludere, insomma a stabilizzare il debito greco, che dopo tutti i soldi che gli sono stati dati, 240 miliardi tra primo e secondo piano di aiuti, i 100 miliardi, ricorderete, di ristrutturazione pagati dai risparmiatori privati, perché c'erano dentro i risparmiatori privati, 100 miliardi, il più grande della storia moderna. A questo punto, la sesto anno di recessione, i conti della Troica sono stati completamente sbagliati e il debito greco oggi è ancora al 140% del PIL. E quindi non ce la fanno. Come fare? La Lagarde chiede una ristrutturazione, cioè ancora una volta prendersi una parte diciamo così, delle perdite. Ma la Germania, la signora Merkel, che vuole vincere le elezioni a settembre 2013 e quindi vuole presentarsi ai suoi elettori dicendo non ho dato un euro in più, e non ho speso, non ho perso un euro nei confronti della Grecia, che viene considerata soprattutto dai della CSU, dei bavaresi, dei liberali che sono suoi diciamo partner di governo, un pozzo senza fondo e quindi vorrebbero farla uscire dall'euro, allora non vuole avere questo problema e quindi fino a settembre 2013 ci sarà un continuo tentativo di tenerli, di dargli, ma non risolverlo. La Merkel oggi ha proposto di dare 10 miliardi al fondo salva stati e IFSFF come misura possibile. Non bastano però, mi sembra di capire. No, no, perché tu con questi 10 miliardi che dai all'FSF, che poi servirebbero probabilmente a comprarsi in un buyback dei bond greci in delle mano, obbligazioni greche, delle obbligazioni, certo, greche, che sono, le comprerebbero a 30-35 centesimi, quindi ci farebbe un certo senso, ridurrebbe il debito della Grecia, sì, a un costo letteralmente basso. Buono, basso. Però il problema è che è un sistema come quello di tagliare i tassi di interesse, no? O come quello di fare una moratoria per non pagare gli interessi, oppure allungare la scadenza per ridare i 53 miliardi che tutti insieme, Italia compresa, abbiamo dati alla Grecia. Perché ricordiamocelo, noi molto del nostro deficit è anche perché noi abbiamo aiutato Grecia, Portogallo, Irlanda. La proposta di partenza redatta dal Presidente del Consiglio Van Rompuy vale 1.010 miliardi di euro in 6 anni, 138 solo nel 2013, che verrebbero così distribuiti. Fondi per la coesione 49 miliardi, agricoltura PAC 44 miliardi, sviluppo rurale 13,8 miliardi, competitività 13,6 miliardi, aiuti allo sviluppo 7,3 miliardi, amministrazione 8 miliardi e mezzo, sicurezza e giustizia 1 miliardo e 600 milioni di euro. Tra contributi versati e fondi ricevuti, l'Italia ha sinora registrato un saldo negativo di circa 5 miliardi di euro. Ora il governo chiede uno sconto e in mancanza di un'intesa è pronto a porre il veto sul documento. Sentiamo su questo Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, al microfono di Sebastiano Barisoni. Noi siamo in una posizione molto scomoda, nel senso che tradizionalmente fino al 2000 siamo sempre stati dei beneficiari netti del bilancio, perché abbiamo sempre avuto questo dualismo del nostro paese nord-sud e quindi un sud bisognoso di aiuti, avendo forti ritardi di sviluppo e necessità di recuperarli. Al tempo stesso però dal 2000 siamo diventati anche contribuenti netti, il che significa che ogni anno versiamo al bilancio qualcosa come 5 miliardi al bilancio europeo, 5-6 miliardi di questi. Un miliardo a nostro carico riguarda lo sconto che bisogna fare, cioè la contribuzione che tutti i paesi danno per lo sconto britannico di 3,6 miliardi all'anno. Ora, naturalmente, se si taglia l'ammontare totale del bilancio pluriennale, i capitoli che soffrono sono quelli dell'agricoltura, in particolare degli aiuti diretti e i fondi strutturali. Questo avviene non solo per i tagli, ma anche perché la riforma Cholos sull'agricoltura ci ha penalizzato nei criteri di distribuzione degli aiuti diretti, che sono la parte più sostanziale degli aiuti europei. E al tempo stesso le riforme dei criteri per la distribuzione dei fondi strutturali tendono a rivedere sia i criteri della prosperità relativa dei paesi, sia quelli della disoccupazione. Il risultato è che vengono favoriti i paesi assolutamente più poveri, cioè quelli dell'est, e le nostre regioni, soprattutto quelle in transizione, tipo Abruzzo, Molise, eccetera, rischiano di essere tagliati fuori. Quindi noi su questo fronte abbiamo sicuramente un danno che è impossibile calcolare con esattezza, ma che sulla base delle proposte sul tavolo supera i 10 miliardi. Al tempo stesso però, dal lato delle uscite nostre, dei nostri contributi al bilancio, rimarrebbero sia per questo settennato l'attuale situazione dei contributi nazionali, quindi non cambierebbe nulla, sia se non ci saranno delle variazioni, il nostro contributo allo sconto inglese rimarrà tal quale, il che significa in sostanza che verremmo sicuramente molto danneggiati. Per questo bisogna alzare la voce. Ora, come si alza la voce in una trattativa europea dove si decide all'unanimità, come in questo caso? L'unico modo è agitare seriamente la minaccia del veto nazionale. Certo. Il primo faccia a faccia per il presidente europeo Van Rompuy e quello della Commissione Barroso è con il premier britannico Cameron, che ha annunciato che si batterà per ottenere un buon accordo conservando lo sconto. Il premier italiano Monti ha invece dovuto difendere le linee rosse del paese, che sono i fondi per la politica agricola e di coesione. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Credo che tutti i paesi vogliono in questa circostanza difendere i propri interessi. credo che la stampa internazionale si sia concentrata molto sul caso inglese, probabilmente perché è stato quello più rumoroso negli ultimi tempi. L'Italia ha posto il veto, o comunque ha minacciato di porre il veto se è necessario, ma altri paesi hanno fatto altrettanto. È un momento di crisi economica particolarmente difficile e ci sono fondamentalmente due gruppi di paesi. Ci sono i paesi che vogliono in un modo o nell'altro ridurre il bilancio comunitario perché questo bilancio rifletta meglio l'austerità che vige negli stati nazionali, e l'altro gruppo dei paesi è rappresentato da un certo numero di stati membri che vogliono mantenere il bilancio e soprattutto mantenere i fondi per la coesione e per l'agricoltura. Non sarei troppo pessimista, mi rendo perfettamente conto che ci sono dei nodi da sciogliere, mi rendo perfettamente conto che la crisi economica complica le cose, ci sono anche delle elezioni in alcuni paesi europei che potrebbero complicare le cose, ma ho l'impressione che il gabinetto Van Rompuy possa mettere sul tavolo questa sera davanti ai 27 capi di Stato una possibile soluzione o comunque una proposta che può diventare una forma di compromesso. Come dicevo prima, la Gran Bretagna è certamente un problema, ho l'impressione però che il vero problema sia la Francia. La Francia vive un momento di grande difficoltà politica, economica, istituzionale nei confronti del partner tedesco. Sarà difficile per Hollande accettare un taglio troppo drastico e soprattutto troppo visibile dei contributi europei alla politica agricola. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa. In collaborazione con Euronet.